ti hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito? Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto. Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai. Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi era che sparava cazzate a manetta. Minchia, l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto, buongiorno, senta, noi stiamo a Taranto, stiamo sì, vivendo. Sì, tu sei a Taranto, no, noi, tu sei a Taranto. Come che noi stiamo vivendo a ma Taranto? Noi chi? Tu stai vivendo. Io, no, tu, sì, vabbè, scusa, no, vabbè, io sto vivendo a Taranto, vogliamo sapere una cosa, perché devono stare chiusi i ristoranti e pizzeria? Perché? Perché? Perché? Dimmi, perché? Perché noi non sappiamo come vive, come dobbiamo mangiare, perché noi andiamo a fare la spesa. Ma chi va a fare la spesa? Per chi? Ah, per i ristoranti, lui va per i ristoranti. No, per casa sua, vai a fare la spesa per casa tua, allora che vuoi? Perché vogliamo capire, perché dovete chiudere questi benedetti ristoranti? Perché vogliamo capire? Tanto è uno che parla, che cazzo vogliamo capire? Esatto, scusa, sei tu che parli. Lei è uno, il signor Eddie, che pone una domanda, come faccio io a fare la spesa? Che cazzo ne perché so? Come faccio io a fare la spesa? Come va al supermercato e fa la spesa, quella è l'unica cosa aperta, andrà lì e quello che può comprerà, ma che cazzo di domanda è? Basta, adesso mi sono rotto il cazzo! Ce l'ha a morte con questa gente, a morte. Io voglio domande di gente colta, capito? Io non ho capito una cosa, questa è una telefonata, la classica telefonata surreale, giusto Parenzo? Cioè, sì, la classica telefonata di uno svalvolato, di un classico svalvolato. Dimmi. Senta, sì. Io per favore non dire parolacce, perché non dire parolacce. Per favore non pronunciare il mio nome, mi faccia questa gentilezza, pronunci lui, non pronunci il mio nome. Mi dà fastidio che persone così pronuncino il mio nome. Allora, mi dà proprio fastidio. Ma che male parolacce ha fatto? Lei non dire parolacce. Ma io non ho detto un cazzo per ora. Ho chiesto semplicemente. Non dire parolacce. Con te. Ma non ho detto un cazzo io, cosa vuole da me? Sto stato zitto tutto il tempo. Aspetta, ti aspetto un attimo, ferma, dove stai andando? Ma devo andare che c'ho da fare, che c'hai da fare? Cosa da fare? Cosa hai da fare? Devo andare a fare una cosa. Venga, per piacere, fatemi chiudere che me ne devo andare. Ma sì, dove devi andare? A casa. Ma questo è cretino totale, cioè, ma questo è un imbecille totale. Cioè, pronto? Vogliamo Eddie da Taranto, non dire parolacce, nuovo interventista della zanzara. Eddie da Taranto, non dire parolacce, spettacolo! Scene da fine del mondo in Lombardia, dove bar, ristoranti, eccetera, eccetera, chiudono le saracinesche prima del lockdown. Scene di ribellione in altre parti d'Italia. In Calabria la gente non vuole chiudere, in altri posti si stracciano le cartelle sattoriali. Il caos. In diretta da Roma, David Parenzo. Buonasera cari amici. Nel corso della puntata leggeremo i 21 indicatori per uscire dalla zona rossa, cioè quali sono i criteri autorizzati e messi in campo dal Comitato Tecnico Scientifico per valutare il colore delle regioni. In diretta da Abbano Terme, mollemente adagiato sul suo lockdown. Lui è in lockdown davvero. E soprattutto dentro la bolla di un hotel ad Abbano Terme, dove non può entrare nessuno se non testato con il tampone, Alberto, con il tampone rapido, applauso. E stasera alla fine della zanzara io vado a buttarmi mollemente in piscina termale. Purtroppo anche è così. L'unico sfigato. Una temperatura fantastica. Quanto è costato alla fine a questo hotel? Il tuo soggiorno lì con tutto quello che hai mangiato e gli ospiti che sei portato. È uno scambio di pubblicità. Ma quanto è costato materialmente all'albergo? All'hotel un bel po' di migliaia di euro. Quanto? Possono permettersi un investimento in pubblicità e sento il fegato che fa il Pappalardo, io inizierei subito bene stasera. Pappalardo, il virus non è aumentato. Iniziamo con Pappalardo, dai, divertiamoci un po', ragazzi. Poi... Ma come si fa a mettere Pappalardo in una giornata drammatica? Il capo dei gilet arancioni, dai, Pappalardo. Le gilet arancioni. Molto carico. Comunque, posso dire una cosa? Che secondo me questa situazione di caos a uno come Freccero, cioè, deve piacere tantissimo. Con le ribellioni nelle regioni, troppo poco ancora, troppo poco, no? Immagino troppo poco, no? Primo ancora collegamento, Non vediamo naturalmente ancora il sangue, nulla, naturalmente, sì, c'è, ancora sì. C'è dibattito, sì. Le regioni in rivolta, dov'è la rivolta? Naturalmente vedo la regione Calabria che borbotta, sì. No, teniamo a pè, non si vede ancora niente, lo spettacolo deve ancora cominciare, naturalmente, lo spettacolo deve cominciare. Se non c'è sangue non c'è televisione, Io ho dato un suggerimento, naturalmente, quello di mettere sotto contratto, oltre il coronavirus, come ho già detto, sì, cosa? Anche tutte le altre nuove epidemie che stanno studiando in Cina, naturalmente. Ho già fatto un pre-contratto con la Cina per tutte le prossime epidemie mondiali, naturalmente. Cioè, senza epidemia non c'è share. Un 2+1 va fatto come fanno le grandi aziende, un 2+1. E gli agenti provocatori, delle piazze del Piemonte, nelle piazze di Piemonte, Lombardia e Calabria. Tutto il mondo in rivolta, dai. Pappalardo, vai. Come? Non è aumentato il contagio! Come? Noi non abbiamo fatto aumentare il contagio! Aspetta. No. L'ho affrontato diversamente. Come lo facevano i nostri vecchi, perché il coronavirus è un'influenza. Detto, quando voi avvertite un po' di mal di gola, fate una cosa molto semplice. Sì. Uno dice, ma sono misure preventive blande, ma intanto fatelo, no? Bevete molta acqua, perché il Covid... che si mette in gola è molto debole, grazie al cielo, voglio dire a tutti gli amici che mi ascoltano. Aspetta. Questi terribili virus, batteri, sono deboli, muoiono per niente. Ma l'acqua, cioè, ma come l'acqua, la cosa incredibile, bere molta acqua. Chiedo se sta parlando seriamente oppure no. Sto parlando molto seriamente, perché sto girando le piazze mentre lei sta qui. Io sto girando tutta l'Italia. Guardi, io non sto. Mentre lei sta qui, io giro tutta l'Italia. Lei è qui con me in questo momento. In questo momento lei è qui con me. Non è in giro per le piazze, è qui con me in questo momento. E io le sto chiedendo se lei sta serio mentre dice quello che ha appena detto. Ma lei è una persona seria, ha da fare una formazione di questo genere. Ma chi è questo? Questo si chiama Villanova, è uno credo della Lega. Questo Villanova, però. Aspetta. Sembra uno statista, sto Villanova. Ed è della Lega, Ed è della Lega. No, uno statista. Aspetta. Confronto. Io sono un medico. Non è serio. Io le ho fatto una domanda. Lei è una persona seria? Signor Pappalardo. Vede che attaccano, io me ne vado perché non posso lavorare con questa gentaglia che ti attacca sul piano personale. Lei è una persona seria? Ma no. Me ne vado. Ma si siede. No, io me ne vado. Ma non ha detto niente. Ma dove va? Ma meglio se se ne va. Dove va? Aspetta. Ma dov'era sta roba? Aspetta. Rete Veneto. Non posso stare con un cialtrone come questo. Io sto facendo discorsi a carattere generale e dice se sono serio. Ma se ne va. Ma va a fare. C'è il diritto. Vado a fare il politico. Io sono stato generale dell'arma. Ancora. Io ho dato la vita per la mia paese. Lei non ha dato, la vita proprio per niente, perché lei è qua. Vado a continuare a fare. Ma resti qui che ci divertiamo un po'. Bravissimo. Ma non ho capito, poi questo se n'è andato dicendo: io ho dato la vita, sono stato un generale dell'arma. Sei stipendiato dagli italiani, Pappalardo. Stipendiato dagli italiani. Ovviamente, vitalizio e pensione da generale. Incredibile. Che è stato generale l'ultimo giorno di carriera. Voglio iniziare col botto, anche con Spatalino, che dice: usano il virus per governarci con il terrore. Ma batte Spatalino, no? Non batte. A proposito di malattie, di influenze, qui ci stanno inchiappettando. Ma che succede? C'è il virus, attenzione, io non l'ho mai negato. Allora? Ma stanno utilizzando il virus per governarci con il terrore. Ne sono convinto. Senti, poi questa cosa farà arrabbiare Parezzo. È l'unica colpa di Mussolini: allearsi con Hitler. Allearsi con i giraziani. Niente, l'entrata in guerra. Senti. L'unica colpa di Mussolini: allearsi con quel paranoico. Ma tant'è, ormai non possiamo andare indietro. Ma perché poi? Non possiamo cambiare il corso della storia. Ma male. Ma non ho capito, ma chi gliene frega poi basterebbe lui? Basterebbe studiarla, non cambiare il corso. Basterebbe studiarla la storia. Maledette mascherine poi, maledette mascherine. Senti. Ci viene imposto da Roma un diktat. Credetemi, altro che democrazia, la loro democrazia. Ci stanno togliendo anche la possibilità di respirare con queste maledette mascherine. Basta, io voglio respirare, non voglio morire. Vergognatevi. Allora ragazzi, però c'è un elemento molto interessante. Diceva prima Parenzo che le regioni si ribellano, e in effetti è così. C'è molta politica, naturalmente. Le regioni che prima volevano autonomia, poi decide il governo e prendono no, e dicono che invece i criteri non sono giusti, eccetera eccetera. Spirli, che è il mitico presidente subentrante, diciamo vicario della Calabria, ho battagliato già oggi a Coffee Break con Spirli. Senti, ho già battagliato la gente oggi. Creperà di fame, si vuole opporre, ha fatto ricorso contro il governo, contro la decisione del governo di chiudere la Calabria, zona rossa la Calabria, la gente creperà di fame. Ziguli è incredibile. No, vai, che Spirli. Ziguli. Il commercio, l'artigianato, la piccola impresa sono in realtà produzione familiare. Sì. Per cui la gente creperà di fame. Hanno attaccato le regioni di centrodestra. Effettivamente, ragazzi, se vai a vedere, ma caro Parenzo, Calabria, in Veneto, Piemonte, in Veneto governa vabbè, Liguria, il comunista di Zaia. Vabbè, la Liguria, di Zaia, la Liguria, ho capito, ma la maggior parte l'Abruzzo, delle regioni, l'Abruzzo, la maggior parte delle regioni sono di centrodestra, per cui non dire però calzate, le zone rosse e la Campania come si è salvata? Come mai si è salvata? Perché all'improvviso prima era un inferno. Ma hai letto i 21 dai, indicatori, ma che 21, mettiteli nel culo, 21 indicatori, io te li leggo tutti, no, te li devi tutti mettere nel culo, 21. Te li devi io mettere nel culo, tutti i 21 indicatori, tutti i 21 indicatori. Ma guarda un po', è come se veramente il virus più scostumato è il virus delle regioni di centrodestra, stranamente. Quando chiamate, chiedete a Parenzo quanto costa un litro di latte, le uova o il pane. Vedrete che questo non è la più pallida idea, perché c'ha i servi che gli vanno a fare la spesa. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o zappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Me ne frego della legge che hanno appena approvato. Io continuo a chiamarli froci, ricchioni, finocchi, pederasti, invertiti, busoni, rotti in culo e culattoni. Questo è legionario, nostro amico legionario, legionario da Messina. Verrà, non è ancora legge, non è ancora diventata legge purtroppo, perché manca una lettura capito, al Senato. Dunque, se dici culattoni multa, se dici culattoni multa, appena diventerà, beh, se lo dici con fascismo, disprezzo fascismo. E insulto, se dico, certo. Se io dico sei un culattone, devo se essere multato? Come che vuol assolutamente dire come sì, se io dico sei un culattone, lo usi come insulto, ma sì, assolutamente. Come insulto? Io dico quello è un culattone, insomma, multato, insulto. Devo essere multato secondo te? Assolutamente sì. Che ne so, non è libertà. Dico, faccio un'ipotesi, lo stimo. Tiziano Ferro, un culattone, multato. Lo insulti, certo. Ah, certo, dicendo insultante. Un culattone multato, beh, secondo direi, te. Direi, no, però attenzione, direi. Però attenzione, ma logica. Se tu mi dici, mia, se tu mi dici ciccione di merda, invece no. Ma roba incredibile, allora? Incredibile, no, vabbè, incredibile. Quello è un insulto, fermi ma ovviamente tutti. Allora, ragazzi, voi veramente pensate, veramente credete a Cosenza c'è una manifestazione contro la zona rossa? Bene, in corso, ottimo, a Cosenza, ottimo, gente in piazza, ottimo, senza mascherina, ma cosa no, direbbe Capanna? Capanna, per esempio, cosa direbbe Capanna di una manifestazione a Cosenza? Un momento. Agli amici di Cosenza dico subito che arrivo ovviamente con vitalizio e mascherina per stare al vostro fianco. Ovviamente starò dentro una macchina perché non mi posso contagiare con con voi. Ma l'invito è ad usare una cosa che negli anni 70 andava moltissimo, cioè? Si chiama Molotov, che prende il nome, prende il nome da un grande dirigente comunista, Molotov, sì, certo. Naturalmente. Quello era un patto. La Molotov che usavamo noi era una cosa molto semplice, un una pacco, bella bottiglia un di pacco, vetro, sì, sì. Ma anche una bottiglia di vetro, attenzione, sì. Dentro si può mettere della benzina molto comodamente. Lei sta incitando alla rivolta in Calabria, praticamente. Beh, formidabili quegli anni, naturalmente negli anni 70, la gente come te, caro Cruciani, della Confindustria, veniva cacciata a calci nel culo e scappavate come conigli. Siamo negli anni 70, ogni momento è buono per provare a accendere un po' di libertà e di rivoluzione comunista in questo paese. Ma questo c'entra, però qui sono, qui è il governo che mette in difficoltà, certo, il ceto produttivo. Lei, sento che c'è un altro Gilletti qui che si chiama Gottardo, Gottardo, che è un nuovo Gilletti. Capanna come il generale Pappalardo con i vitalizi. Allora ragazzi, voi veramente pensate che questi criteri, questi 21 criteri, certo, del cazzo che Parenzo ha lì davanti, basta leggerli, che servono a definire la zona rossa, certo, l'arancione gialla, certo, sia quello che decide, direi, sia veramente quello, direi, che decide. Ma un complotto, sei un ingenuo, sei peggio di Trump. Cioè, qual è l'interesse del governo? Briatore, fammi sentire Briatore. Ma Briatore, ma per carità di Dio, Abbiamo visto il decreto di Conte, sì, e abbiamo visto che Piemonte, la, sì, Calabria, la Valle d'Aosta, sì, area rossa, sì, area gialla la Campania. Beh, dai, basta, fuori di testa. Ma c'ha ragione, dopo lo chiamiamo Flavio, ma c'ha ragione. Ma fino ragione all'altro giorno De Luca, il governatore del mondo, attaccava una bambina perché voleva andare a scuola dicendo che c'era l'inferno. Dicendo che c'era l'inferno, e adesso è fuori. È fuori dalla zona scuola rossa. È chiusa. Ma ti dovresti vergognare, Parenzo, vergognare. La campagna è chiusa, a non c'è la... queste buffonate dell'algoritmo. Ti dovresti vergognare. Non è un algoritmo, sono 21 punti elaborati dal comitato tecnico scientifico. I parametri Chi insulta chi va in piazza, senti, chi non paga le tasse urla di più, riferendosi a quelli che vanno in piazza a protestare, che magari stracciano le cartelle esattoriali, che sono incazzati perché naturalmente non credono che il governo li risarcirà. Non ci credono e hanno ragione a non crederci. Eppure lui dice, beh, chi non paga le tasse urla di più, che cazzo gliene frega dal suo casale in Toscana? Dai. Queste ambulanze, queste robe, la gente che muore, e noi siamo qui a parlare di economia, di soldi. Dico, c'è qualcosa che non è funzionato, c'è qualcosa che non funziona con una percentuale di italiani che non paga le tasse, però ha tutti i diritti, e forse sono quelli che urlano di più. Cioè, non siamo civili. Dai, abbiamo trasformato l'Italia in Arlecchino, con i colori, con le cose, sembra di stare in un ma posto ma volevi assurdo. Chiudere dai, tutto, molto meglio dai, così, chiudi Carmelo, per solo di 15 giorni e vedi come vanno le cose. Carmelo, provincia di Messina. Peraltro le scuole rimangono aperte fino alla terza media. Mamma mia, sei proprio... Cioè io lo scendiletto del governo, di Speranza, ma di Brusaferro... Ma io non riesco a capire, mai, ci sono mille cose giuro, sbagliate del governo. Non ho mai del visto mille, uno così appiattito mille, sulle posizioni ci del governo. Ci sono mille Carmelo, cose sbagliate del governo, ma in questo caso hanno fatto le cose con un minimo di... lasciando le scuole aperte. Nella zona rossa scuole aperte fino alla seconda media. Praticamente la settimana scorsa mi sono praticamente stato in contatto col fratello di uno che è risultato contagiato tre giorni fa e me l'hanno detto oggi però. Io stasera però ho un appuntamento con una ragazza di un paese vicino al mio paese per scopare. Sì, e quello è il problema. Attenzione, innanzitutto per scopare bisogna sempre fare di tutto, dunque va benissimo quello che fai. Devi uscire con una per scopare, vai a scopare tranquillamente. Poi sei stato a contatto col fratello di un positivo, e che sarà mai? Cioè, sai bene? Hai sintomi? No, è l'unica possibilità, perché da domani è zona arancione, non ci possiamo spostare del comune. Ma allora vai a scopare, amico mio, ma che aspetti? Scusa, grazie, ma amico mio, hai la mia autorizzazione, se ti ferma la polizia oltre mezzanotte. Sì, tanto ferma te. Dai, se ti ferma la polizia oltre mezzanotte, avrai un motivo, sto tornando a casa. Cerca di fare tutto entro mezzanotte, poi in Sicilia, vai ragazzi. Devo scopare, non ce la faccio più. Ma sì, dai, ma questa te la dà sicuro? Non l'ha mai fatta in vita sua, questa figura. Questa qua praticamente, qual è la cosa assurda? Questa qua abitava in Puglia, è scesa tipo tre giorni fa, praticamente, dopo che si è lasciata, però poi ripartirà tra, non lo so, 10 giorni, quindi io ho sta possibilità e basta, tipo oggi. È giusto, ma certo. Beh, sentitevi al telefono, via Skype, e poi vi vedrete quando è possibile. Parenzo, muto. La situazione mi pare complessa. Ma quindi, quale complessa? Ma scusami, tu hai paura di infettarti con questa? Non credo, no? Non te ne sbatti No, ma io già 2 giorni fa in realtà me la trovo, volevo cominciare, ma ho scoperto oggi che praticamente questa situazione qua, sono venuto a contatto col fratello di sto positivo. Ma che quindi... sei il fratello di un positivo? Ragazzi, non possiamo vivere nel terrore. Sei venuto a contatto col fratello ragazza, del positivo. Diglielo però, alla ragazza diglielo però, non teneglielo nascosto. Diglielo dopo però, perché questo potrebbe essere l'ultimo tango in Sicilia. Bravo, quindi bravo, io la vedo una cosa molto poetica. Sono dalla tua parte, amico siciliano. Ma dillo alla tua questa ragazza. Tieni alta la bandiera dei Roberto figlioli. Dalla provincia di Venezia. Vai. Roberto. Oh. Pronto? Dimmi, Robè, dimmi, veloce, vai. Ciao. No, senti, io siccome ho un problema adesso con la casa, no? Che ho praticamente uno sfratto in atto in questo momento. Allora? Io volevo chiedere a Parenzo, visto che lui è tanto per l'accoglienza e robe varie. No, volevo vedere, visto, no, perché lui dopo parla male di Giordano, di Meluzzi. Cioè, no, tu dici, intanto Meluzzi, hai uno sfratto in corso e intanto vedi arrivare continuamente immigrati, per questo sei incazzato. No, dove arrivano? Avete visto la trasmissione di Giordano? No, cioè, sbarcano continuamente. Nella trasmissione di Giordano si vedono continuamente sbarcare immigrati. Sbarcano, è sempre la stessa immagine. È sempre la stessa immagine. No, ma le case sono occupate, cose. Io sì, faccio un lei, lavoro. Che... Lei guarda, no, sempre, guarda sempre Giordano, chiaramente, no? Guarda sempre no, Giordano. Beh, ma ovvio, perché Giordano non ovvio, è male, certo. Perché Meluzzi è male. Del infatti... debbio? Del debbio no, com'è? Ma... Fermi no, tutti, ma... fermi tutti. Ha ragione Roberto, fermi tutti. Mamma mia. La zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Luciani, non dici niente che da domani la tua bella Lombardia è chiusa, solo la tua Lombardia insieme ad un altro paio di regioni, non tutta l'Italia, bamboccio, libertà, libertà, libertà. Libertà che da domani state tutti chiusi in Lombardia, eh? Non c'era più niente, te, tutti quelli come te che avete rotto il cazzo sul virus, eh? Da domani state tutti chiusi, state tutti chiusi. Ciao Cruciani, chiuditi, ciao ciao. Allora, fascio leghisti della Lombardia, eh? Chissà come vi tira il culo che solo voi e pochi altri siete zona rossa. Chissà come vi tira il culo, a cominciare da Cruciani che ha sempre rotto i coglioni che il virus non c'era più. E invece in Lombardia state tutti chiusi, lockdown totale, totale, alla faccia di Fontana, Gallera, Salvini e tutti i fascioleghisti della Lombardia e non solo. Lombardia chiusura totale, alla facciaccia vostra. Tuttavia mi capita di vedere un'intervista ad una mammina con una bella mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi. La domanda del giornalista: lei che cosa dice per la chiusura delle scuole? Risposta: la mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. È l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione perché voglio imparare a scrivere, perché mi manca la grammatica e la sintassi, mi mancano gli endecasillabi. C'è questa povera figlia, evidentemente è un OGM, cresciuta dalla mamma con latte al plutonio, l'unica al mondo, è stata trovata da questo intervistatore, ma mica ha chiesto alla mamma, senti, con 400 contagi nel mondo della scuola, tu che pensi che si debba fare? Devi portare la bambina? Allora, un genio è un genio, per essere un genio. Non c'è nulla da ridere, c'è nulla da ridere. Però bravo per averla fatta sentire tutta. No, fa ironia sull'incapacità. L'avete fatta, meno male che l'hai fatta sentire tutta, però. Cioè, è un governatore incapace di tenere le scuole aperte. Al di là della battuta che ha fatto. È una tragedia per la Campania, ma non c'è dubbio. Ma al di là della battuta, nella seconda parte lui dice giustamente, la domanda da fare alla madre era: "Ma tu la si sentiresti sicura di mandarla a scuola con questo numero di contagi. Ma non dire cazzate, dai. Il sì, plasma sì, fondamentale. Ovviamente, ovviamente De Luca ha detto una cazzata qua, però no, ma la cosa la sentire tu. No, ma lasciamo perdere. Il punto ormai tu Parenzo, è che mandi a scuola i tuoi figli, sei un criminale. Cioè, io certo che li mando a scuola, ovvio che li mando. Allora, ragazzi, il punto non è nemmeno questo, il punto è un altro. Il punto ormai è un altro, questa è una roba vecchia della settimana scorsa. Il punto è un altro. E la situazione sì, così drammatizzata, sì, drammatizzata da De Luca e alla fine la Campania zona gialla. Ma ti hanno spiegato, ma perché ragazzi, nel radio giornale non hai ascoltato il radio giornale prima? Ma non ci vedete qualcosa di strano? Non hai ascoltato i motivi? Non ci vedete qualcosa di strano? Ma ascoltato no? L'incapacità di De Luca. Roberto, provincia di Venezia. Ma hai sentito l'intervista? Giù, Roberto, provincia di Venezia, giù. Qui c'è il podcast, sai che cazzo ci frega del giornale radio. Roberto, provincia di Venezia, dai, forza. Dimmi, mi sentite? Dimmi Roberto, dimmi. Allora, intanto, che cazzo serve il telegiornale? Che cazzo è il disgraziato che ascolta questa trasmissione, che ascolta il telegiornale? Lascia perdere, questa comunque è una fissazione di Parenzo, dai, dimmi Roberto. Vabbè, dimmi. Comunque, ascolta, ho pensato una cosa dedicata a te. Prova a pensare stasera quante scopate ci saranno in Italia. Quante scopate in alcune regioni, in Italia? In alcune regioni io sicuramente ce ne saranno parecchie. Io prima in doccia mi sono dato la mia depilata totale, sì, perché stasera ovviamente... E ti sei fatto una depilata totale? Una depilata totale perché stasera... Cioè ti sei depilato, non ho capito. Sì, perché stasera la ragazza viene a casa mia. Capito che uno bisogna che uno si depili, non ho capito. Cioè. Sì, perché è un po' rognosa. Cioè, non credo, ti vuole depilato questa qua? No, solo la parte intima. Cioè, vuole la parte intima depilata. Questo è un tema molto interessante che abbiamo affrontato diverse volte. Cioè, la depilazione della parte intima. Perché, non so, se mi fa un pompino, ok, è capitato che magari le stava il pelo in bocca, lei è una cosa che non sopporta. Vabbè. Cioè, non è mai morto nessuno per un pelo in bocca. Ognuno ha i suoi propri difetti. Ma non è che difetti, ma non è che uno può adagiarsi a questa cosa. Io ho i peli, non è che mi depilo perché c'è una che non vuole i peli, ma mai nella vita. Cioè... Comunque, io sono un ragazzo di 20 anni. Sì. Okay. Non gioco più a calcio perché l'hanno sospeso, giocavo nella prima categoria. Sì. Perché ti hanno sospeso? Non ho capito. Perché hanno sospeso la prima categoria? Sì, hanno sospeso sport di contatto, il calcio. Sì, lo sport amatoriale, sì. Poi? Quindi, poi si chiudono tutto ai bar, eccetera, alle 6. Non si può più uscire alle 22. Quindi, io a 20 anni la mia vita è 8 ore in officina e a casa. Perché? Questa è la vita di molti, purtroppo. Cazzo? Sì, ma che cazzo è? Diciamo che alla provincia di Venezia, in Veneto, siete anche fortunati per adesso, amico mio. Per adesso, ma siccome. Come se siete disdagnati che c'è Massa Goldoni in giro? Sì, no, può essere. Ciao Roberto, ciao. Marco da Pavia, vai. Marco da Pavia, vai. Dimmi Marco, dimmi. Marco. Fabio da Pavia, dimmi Marco. Scusa, non sentivo. Dimmi. Io volevo solo dire una cosa, ci sono un po' incazzato, in particolare con la storia Un sacco di gente incazzata in questo periodo, guarda. Esatto. Poi comunque ho scoperto una cosa, ragazzi, che se uno va a vedere i negozi aperti anche nelle zone rosse, il tipo di negozi aperti, in realtà uno può uscire non per miliardi molto di motivi. Quindi se non c'è il lockdown. Se uno vuole uscire, a farsi i cazzi suoi, dicendo sto andando dal parrucchiere, sto andando che cazzo ne so, a comprare. Quindi non c'è qualcosa. Il lockdown totale. Ma non lo so, poi in realtà è così, esatto. Sì, uno può andare in qualsiasi, può dire sto andando a fare che cazzo ne so. Sì, in ma uno non detta... è come a marzo però, è perché un po' meno, vai un po' a no, Marco, sono le scuole aperte. Marco, le fabbriche aperte. Dimmi Marco. Dimmi. Io sono incazzato in particolare con i ristoratori e con i cassisti, perché adesso che t'hanno fatto i ristoratori e chiedono soldi allo Stato, però quando guadagnavano bene e le cose giravano bene, ma che c'entra? E non pagavano le tasse, facevano i turni nella zona, eccetera. Ma che vuol dire allora, pagare le ma tasse? Ma che c'entra? Ma devi generalizzare? Ma che cazzo vuol dire? Che hai preso i tassisti e i ristoratori come degli evasori fiscali? Sì. E ma sì, un cazzo, ma sì, che cosa? Vogliono i soldi dallo Stato, però quando loro li guadagnavano invece andava tutto bene. Ma chi c'è detto lei? Marco, quelli che... Non bisogna dargli niente, se non bastonate sulle labbra. Lei. Ma bastonate pazzo sulle labbra bisognerebbe darle a te. Che lavoro fa? Farà il pensionato sicuramente, cioè avrà fatto lo statale pensionato. A tempo indeterminato. No, impiegato in una società a Milano. Appunto, impiegato a tempo indeterminato, quindi lo stipendio le arriva tranquillo a casa. Esattamente. Ecco appunto, quindi vado a fanculo. Cioè, a differenza, io non sono un garantito. Lei è più garantito di me. Lei è una persona più garantita di me, ad esempio. Richiama sto stronzo. Cioè, questo dice che tassisti e ristoratori vanno presi a bastonate sui denti semplicemente perché evadono le tasse, sostiene Marco da Pavia. evadono le tasse, dunque adesso non si devono lamentare. Un coglione totale. Beh, a chiunque di noi, però, il tassista non si è ammazzato per fare la ricevuta, o il ristoratore è tazzato lo scontrino. Si sa quanto guadagnano i tassisti? C'è una media, c'è una. Ma ragazzi, possiamo dire quello che vogliamo, ma dire che i tassisti sono degli evasori fiscali così, a cazzo di cane, come fa Marco da Pavia, che meriterebbero bastonate sui denti e che non devono lamentarsi adesso, non devono avere soldi semplicemente perché non hanno clienti, è una puttanata. Basta vederli fermi in tutte le grandi città. Michele, fermi, provincia fermi di Bari, per vai, ore. Richiamami con lo strozzo, dai. Dimmi Michele, dimmi. Sì, pronto, buonasera Giuseppe. Io chiamo dalla provincia di Bari, quindi sono in piena zona arancione. Aspetta, aspetta, okay? Un attimo, aspetta, aspetta. Aspetta, ci abbiamo anche le zone arancioni adesso. Arancioni, gialle, rosse, incredibile, incredibile. Siamo arrivati a questo, Michele. Ma siamo arrivati a questo, è semplice, per non chiudere tutto. Michele, dimmi, allora? Allora, no, semplicemente la mia domanda penso sia anche legittima. Per quanto riguarda i migranti, perché io sono anche in una zona, purtroppo Bari è anche una zona di sbasco. Allora, se ci sta il discorso dell'ingresso e dell'uscita per noi italiani, per quale motivo i negri devono entrare in maniera non incontrollata e massiccia, diciamo, massiccia, e fare anche i cazzi loro perché sbarcano, non c'è dubbio. Ancora sbarca, fino all'altro giorno ci sono stati degli sbarchi. Numeri esigui. Ah, centinaia di persone. No, scusami, Contardo. Il discorso è: se io che sono un cittadino mi devo attenere a delle regole, lo faccio. Per quale motivo chi viene da fuori in modo incontrollato? Questo è perfetto per Giordano, questo qua. Per lei non è mai andato ospite da Mario Giordano. Vada tra il pubblico. Io non ci posso andare perché sono un ex detenuto, non mi prenderebbe male. Allora fermo, vuole il rispetto delle regole, io ho pagato per i miei errori. Per cosa andrò in galera, signor ex detenuto? Per cosa andrò in galera? Lei che è così rispettoso della legge? Scusami, zucca vuota, io per i miei errori ho pagato profumatamente. Ma quali reati? Che reati hai fatto, amico? Io sono stato in carcere per reati connessi alla droga. Ma qual è il problema? Non e adesso è il leguleio della zanzara. Se mi permetto di parlare, no, il signore della provincia di Bari ha detto una cosa: ha detto perché i negri possono sbarcare. Dice i negri, possono sbarcare. E lui spacciava droga come una furia. Io voglio sapere perché io che ho pagato un debito con la giustizia. Quanti figli, amico? Quanti figli di debito avevi? Quindi sono gli italiani che spacciano anche, non soltanto i negri. Amico mio, io ho pagato il debito con la giustizia. Io ho pagato un debito con la giustizia. Quante persone sono morte per la droga che vendevi tu? Quante persone vengono stuprate? Quanti tossicodipendenti hai sulla coscienza? Delinquente! Non parlare di stupro! Venditore di morte! Quante sei un venditore di morte, decapitate. Quanta gente è morta! Quanta gente è morta a causa tua? Vergognati! Altro che i negri! Decapitata e sgozzata! No, sì, ma quanti ne hai ammazzati tu? Ma quanti ne hai ammazzati tu con la droga? Io non delinquente. Ho ammazzato né Dio, ho fatto del male soltanto a me stesso. Io con la droga. Quanti ragazzini sono andati in overdose per la droga che trafficavi tu? E vieni qui a insegnare la morale alla gente! Verme di un verme, sono quelli che vendono la droga, sono quelli come te. Sono stati sgozzate 3-4 persone, sono state ammazzate persone fino all'altro giorno. Fermo, che torniamo con Michele, ex detenuto, non so per quali reati connessi alla droga. Venditore di morte, lui dice che ha pagato e può dire quello che vuole, il dibattito è aperto, fermi tutti. La zanzara. Eccomi qua. Io sono in un camerino del Vitalife Club di Avant Terme. Incredibile. Fanno un massaggio di uno. Cos'è sta macchia? Faranno viso e corpo. Se non vi piace. Incredibile. Ma cos'è sta macchia? Incredibile. Altrimenti vedrete tutto, chiappe comprese. E se siete dei voyeuristi, siete a casa. Ma cos'è? Io intanto mi rilasso. Ma cos'è sta musichetta? Sta un spot? Video? Cos'è? è il video in cui faccio vedere come sto dimagrendo 12 kg in 6 settimane qui a Plaza di Albano. Ma neanche... Se uno va sulla pagina Facebook o su Instagram e vede i video, ma saresti da denunciare. Ma sei da denuncia all'ordine dei giornalisti. Mi sono disiscritto, coglione. Mi sono disiscritto. Mi sono fatto l'altro giorno la criolipolisi. Prima ti congelano la pancia e così fanno morire ma le cellule del grasso. Ma l'uccello, ti devi far congelare l'uccello. Tu altro che... L'ultima amica che è venuta a trovarmi qui al Plaza ha detto che vuole farsi il calco di gesso, perché ho scoperto che ci si fa anche il calco di gesso al cazzo. Sì, questo non lo sapevo. Consiglio, te ne mando una copia, a chiunque veda questo video fino alla fine, cercate di non ingrassare come me. Esatto. E cercate di sposare una donna che sappia fare questo tipo di massaggi, perché la bellezza passa, l'amore passa, però i massaggi restano. Esattamente. Ma chi ti scrive i testi? Chi te li scrive? No, chi li scrive io, i testi? Decido io i massaggi. Me li fa una Calvino, chi è che li scrive? Allora, eravamo fermi tutti, però, ragazzi. Suada si chiama una, allora, una Michele donna dalla provincia di Bari. Principessa balcanica. Va bene, Michele dalla provincia di Bari, non so se spacciatore o comunque ex detenuto con problemi di droga, che sicuro, però se ne pigliava con negri. Causava problemi di droga. Scusami, uno che spaccia la droga, uno che, scusami, uno che traffica droga, causa i problemi della droga. No, tu sei io un problema per la società, caro. Zitto un attimo, dai, Michele, dimmi. No, voglio sapere, proprio Gottardo che sposa, e anche Parenzo, quell'altro verme, proprio loro che sposano sempre queste teorie sinistroidi, come dire, progressiste, dovreste andare incontro ed essere più che altro clementi con coloro che hanno pagato il loro debito. Io lo sono molto, infatti. E sono benissimo, ritornati nella società. Certo. Confronto a negri, ai negri. Ottimo. Che entrano in Italia, perché i negri lavoravano per te, tu eri il grossista dei negri. Sicuro. Perché tu trafficavi la droga e sfruttavi i negri. Gottardo, e hanno messo per fortuna, hanno messo in galera la droga dei negri la vai a comprare tu, Gottardo. Qui a Bari i negri non ce ne sono, gliela che spacciano tu, gliela procuravi tu. Gottardo, la droga tu. Dei negri, te quanta la compri droga, tu. Quanta io droga ti hanno beccato? Per quale con cazzo di droga motivo? Ti hanno beccato? Per quale cazzo di motivo una persona che ha pagato un debito con la giustizia rispetta la legge, rispetta la deve guardare inerme gente che viene da fuori, decapita, stupra, e non e a differenza tua, non delinque, a differenza tua che non hai eri talmente delinquente che sei finito in carcere. Pezzo di merda, come non delinque? Come certo, non delinque, nella stragrande maggioranza non delinque, nella stragrande maggioranza non delinque. Ma se tu vivi in albergo, fino a prova contraria, i negri non spazzano. Fino a prova contraria, fino a prova contraria, chi ha commesso delitti è lei qua. Tu vivi nella bambagia, Gottardo. Certo, tu non certo sei e mi comporto bene. E non ho mai violato la legge, non ho mai trafficato in droga, a differenza tua. Ma no, il tuo esistere già. Tu ce l'hai la conoscenza. Ma la tua coscienza è pulita. La tua coscienza è pulita. Ci pensi alle famiglie. Ci pensi alle famiglie che hai distrutto con la droga di merda che vendevi. Ci pensi ogni tanto, la sera prima di prendere sonno. Non pensi ai ragazzini in overdose. Pensi ai ragazzini in overdose. Assassino. Assassino. Venditore di morte. Ciao Michele. Venditore di morte. Ciao, ciao. E questo ha anche il coraggio di chiamare. Ha anche il coraggio di chiamare. Calma, calma. Fabio da Padova. Vai Fabio, dimmi. Eccomi qua, ciao a tutti e tre. Dimmi. Io volevo dire una cosa. Io ho un pezzo che sento dire che il governo deve dare i soldi, e sarebbe anche giusto, deve dare i soldi a chi costringe a non lavorare. Di quello si sta parlando, però non è che si sta parlando di dare soldi a pioggia o a chiunque. No. Quelli che tu chiudi li devi risarcire. È chiaro. Molto semplice la cosa, il non è complicato. Il problema è che non lo fanno. Solo che non avviene, questo è il punto. Poi ci sono quelli che per carità evadono e dunque si trovano fregati perché chiaramente bisogna fare il paragone con l'incasso dell'anno prima, e l'incasso dell'anno prima magari non è un cazzo perché evadevano. Questo è un altro discorso. Ma sai perché non ridanno i soldi? Perché? Perché ammesso che ce li avessero, non li darebbero, perché sennò l'inflazione va alle stelle. Emanuele, provincia di Napoli, vai Emanuele, dimmi. Dimmi, Emanuele, dimmi. Allora, è successa questa cosa 15 giorni fa. Sì, che è successo? Ero a pranzo in un ristorante, diciamo, per lavoro da solo, sì, in provincia di Latina, sì, io faccio il rappresentante, sì, ero a pranzo da solo, a un certo punto vedo che un tizio mi inquadra con la fotocamera, ok? Sì, sì, sì, allora? Vabbè, faccio finta di niente, sai, da persona educata non mi permetto di dire scusa, ma hai fatto una foto. Sì. Un mio amico che segue la Zanzara, sì, mi manda lo screenshot dal gruppo Facebook RDR La Zanzara. Sì, allora? Con la mia foto, ma io non so, ma non so di cosa stai parlando e sinceramente non me ne frega un cazzo. Zoe dalla e che cosa vorresti fare allora? Chi se ne frega della foto che ti hanno pubblicato su Facebook? Ma vuoi denunciare? Vai alla Procura della Repubblica, vai dai carabinieri, dalla polizia, chi se ne frega? Zoe, provincia di Caltanissetta, poveraccio questo Emanuele. Zoe, dimmi Zoe. Zoe, come si chiama questo qua? Zoe, come si chiama? Zoe. Antonio da Roma, vai Antonio. Antonio. Pronto? Dimmi Antonio, dimmi. Sì, senti, no, io volevo semplicemente... No, si sente poco Antonio, si sente poco. Mi senti? Mi senti? Boh, leggermente meglio, dimmi. Ecco, senti, no, io sono molto indignato. No, sei in viva voce, sei con l'auricolare o col viva voce? Dai. Però così? Dimmi Antonio, questo ecco, è rincoglionito. No, io sono molto incazzato. Sì. Per il fatto che nessuno parla della non chiusura. Abbassa la radio, per favore. Chiudi la radio, rincoglionito. Ho spento. Ma che hai spento? Senti? Non hai spento un cazzo. Il cervello è spento. Cellulare. Dimmi. Allora, no, io c'è sono... un rimbombo dietro, c'è la radio accesa o qualcosa. È la testa vuota. Porca miseria, hai spento tutto. Guarda, sto in macchina e sto col telefono in mano. Dimmi Antonio, dimmi. Senti, no, ti volevo dire questo. Sono molto incazzato perché nessuno parla della non chiusura dei riti religiosi, delle messe che secondo me sono delle... bombe virali. Non lo so, stanno Antonio, chiudendo tutto. Non lo so, francamente le messe non nessuno. Sono passato di fronte a una chiesa e c'erano tre porte. Alla porta centrale c'erano tutti i frequentatori. Ma che è lo stadio? Alla porta di sinistra c'erano gli scout. Sì, ma solo alla tu porta hai di solo c'erano gli zingari. Sì, ma solo tu, ma solo tu hai visto le chiese piene, non c'è nessuno in chiesa normalmente. Poi ragazzi, se c'era veramente una chiesa, ci sarà qualcuno, sì, che provvederà. Io leggo i giornali, vedo televisioni, radio e nessuno ne parla. Ciao Antò, ciao. Allora, cosa è successo allo Sgarbone? È successo che questa mattina, per aver dato del fascista l'altra volta a Fico, insomma, per le interruzioni dell'ultima volta, eccetera, eccetera, è stato di nuovo sospeso per 15 giorni. Sospeso per 15 giorni. È una farsa. Ma è legittima sta cosa? Ma non lo so, sarà legittima. Certo. Ma non è legittima, è tutta una cosa assurda, dai, ma che roba è? Solo che si è sentito male. Si è sentito male. Perché si è sentito male, ti ricordi quando aveva dato dei criminali? Oh, poveretto, si è sentito male, è stato portato al Santo Spirito. Senti, e dov'è adesso? Senti, no, ma adesso sta meglio. Oh mamma, mi dispiace. Aspetta. A un certo punto qualcuno di loro mi ha preso con più forza e io sono scivolato come per un piccolo mancamento che ha indotto, quando mi hanno chiesto di rialzarmi, a chiamare il pronto soccorso dell'aula. E hanno prescritto in maniera molto perentoria, io andassi al Gemelli dove è stato 3 ore per fare analisi di cui non abbiamo ancora compiuto, avuto i risultati finali. Questa situazione di alterazione dei dati della pressione e dell'elettrocardiogramma, che indicano come quello che è stato fatto è stata una violenza, una vera e propria violenza di cui è responsabile il signor Fico, lui, e che Dio lo maledica. E teniamoci la parte femminile. Dio lo maledica, Fico. Dio lo maledica. Vabbè, ma adesso Fico, dov'è? Come sta? Chiamiamolo, magari sta poverino. No, è stato un po' male, è stato portato perché cioè, ho un po' di problemi al cuore, al Santo Spirito questa mattina, ma sono stato subito avvertito io naturalmente. Cioè, mi hanno subito detto, guarda che l'hanno portato al Gemelli, ma sta meglio. Però, ragazzi, chiamiamo Briatore, dai. Vai, vai. No, chiamiamo Briatore. Sì, Briatore. Briatore è avvelenato, col governo. Vabbè, ma cosa sa con Briatore? Con De Luca e la Campania, ma soprattutto. Ma ha letto i 21 punti che definiscono perché punti. Una guarda, zona basta, è rossa. Ti ho già detto dove una... devi mettere. Ti ho già detto ma dove devi mettere. Ma leggili almeno. Solo tu almeno credi in questa farsa dell'algoritmo. No, anche il... ma non è un algoritmo. Non c'è nessun algoritmo. Non è un algoritmo. Ma lo dicono loro che c'è il comitato tecnico che ha messo insieme 20 parametri. Allo? Flavio? Ehi, ciao, come va? Eccoci qui, come andiamo? Stai eccoci. Bene? Benissimo, grazie. Tanto tu il Covid l'hai fatto ormai, cioè. Che gli frega lui? Chi se ne frega? Ecco, appunto, che gliene frega lui? Lui, beh, lui l'ha bisogna fatto, vedere ma... uno quanto resta immune in realtà poi, però beh, insomma, vabbè. Dai. Cioè, vabbè. Senti, ma non ho capito, ma queste chiusure del governo ti No, ma io una roba che mi ha fatto ridere, cioè ridere, piangere, è che hanno fatto lo stesso errore di marzo. Cioè? Loro prima fanno i decreti e dico, va, andrà esecutivo fra 3 giorni, chiunque in zona rossa può andare in zona arancione, cioè, proprio sono non riescono a fare le cose normali. Cioè, tu dici ti che ricordi a marzo? Sì, sì. Tu il decreto lo fai e poi lo annunci. Sì. E lo annunci che è esecutivo, non dirlo fra 3 giorni. Ti... Ma questo è per dare il tempo alle persone di organizzarsi, però anzi è una cosa certo, positiva perché non è che tu che in zona rossa può tranquillamente tra oggi e domani andare in una zona arancione, eccetera, eccetera. È proprio gente che non capisce o ci pigliano per il culo, ma c'è qualcosa che non funziona. Ma secondo te anche il fatto che la Campania di De Luca sia diventata zona gialla dopo che c'era l'emergenza, eccetera, e per esempio la Lombardia... Lì credo che ci siano stati dei prestigiatori, perché la Campania oggi si è trasformata da essere il focolaio d'Italia ad essere la regione a basso rischio. Cioè, ma io non so come riescano a... è una roba seria, cioè, questa, tu, questi criteri, questi, certo, questi criteri qua che il governo dice, l'algoritmo, decidiamo in base a queste cose, ci credi poco. Io per esempio credo che l'abbiamo vista tutti la situazione in Campania. De Luca è sparito, no? Sì. Il pistolero, sì. A questo punto è sparito. Sì. De Magistris, che è un sindaco, dice che non riesce a capire neanche lui come mai la campagna in quella zona lì, o ci hanno raccontato delle grandi palle prima, ma non può passare un messaggio del genere. E De Luca dove è finito? E dove è finito il suo protagonismo? Ti ricordi, ci ha abituato a questi, beh, sì, insomma, in questi la mesi. Famosa prostatite polmonare, insomma, no? Ma io vedo un'altra cosa, che le regioni di destra sono punite, sì. E le regioni di sinistra. Ma che vuol dire questo? Come le discoteche, aspetta, come tu hai detto una volta, le discoteche di destra hanno punito le discoteche di destra all'epoca. Diciamo. Ma scusa, se bloccano la Lombardia e non bloccano la Campania. Ma il Veneto non l'hanno bloccato. Ma scusa, Flavio, ma che razza di complotto sarebbe? Che razza di complotto è? Non è un complotto. Ma il Veneto da chi è governato? Il Veneto è governato da un signore che si chiama Zaia. Io non l'ho detto tutte. Ma allora vedi che crolla la tua tesi. Tu sei troppo trampiano. Sei troppo trampiano. Fake news. Fake news. Fake news. No, io invece sono convinto che abbia ragione. Sì, e poi dopodiché viene dichiarata zona gialla. Ma non per fare un favore a De Luca, ma non gli fai un favore. Io non so sti logaritmi dove li prendono. Ma non logaritmi, algoritmi, ma non sono logaritmi, ma non sono neanche algoritmi. È uno studio fatto dal Comitato Tecnico Scientifico dove ci sono 20 punti che ti spiegano. Se vuoi te li leggo tutti e te li mando. No, per carità. Quali sono i punti presi in considerazione? Zaia non è chiuso. Zaia non è chiuso. Zaia non è chiuso. Ragazzi, chissà perché. Ma cosa vuol dire Zaia? Ma cosa vuol dire? Chissà perché le regioni più colpite sono 3: la Calabria, il Piemonte e la Lombardia, e tutte e 3 amministrate dal centrodestra. Quella che era considerata il focolaio d'Italia, la Campania aperta. Dai, su, ragazzi. Avevamo De Luca che, a parte la mia prostatite, non voleva neanche che la gente morisse per non fare i funerali. La gente non si doveva sposare. Ma infatti è così. 15 giorni fa. Dai, aveva proibito tutto e improvvisamente diventa tutto perfetto. Ma li avete letti i motivi? eletti non perché? Ospedali. Ma li avete eletti? Quali sono i parametri presi in considerazione? No, ma i parametri, la gente che va in piazza a Napoli. Chi se ne frega dei parametri? Ma glieli dovete spiegare. Ecco, però aspetta, aspetta, però qui c'è un elemento interessante. Cioè, per te, e anche secondo me, non hanno chiuso la Campania perché altrimenti c'era la rivolta della Camorra. Questo dici tu. Può darsi, sicuramente c'è qualcosa, perché è impossibile, ragazzi, è impossibile. Fino a 5 giorni fa la Campania era al focolaio. Tutti che erano De Luca era in televisione un giorno sì, un giorno no, con il suo bazooka per chiudere tutto, improvvisamente tutto fiori. Andiamo trasferiamo tutti in campagna. Ma tu, ma tu ti faresti mai curare al Cardarelli? Ma non ci penso neanche. Al Cardarelli, al Cardarelli. Ma figuriamoci, dai, su. Queste cose qui, indipendentemente da destra e sinistra, sì, dipende la libertà personale nostra e la sopravvivenza economica di ogni cittadino. Questi qui mettono le strisce gialle, verdi e blu come cazzo gli gira per la testa, sì, ma non c'è nessun senso. Non ha nessun leggiti, senso quello che ha fatto. Scusami, ti mando i punti. Quello che vuoi, a me allora, non mi interessa. Allora, ma se non ti interessa, su cosa ragioni? Scusa, ti mando i video di De Luca, ragazzi, di una ci sono 20 fa, punti. Di 10 giorni fa, e tu non pensavi mai più che questa zona qui fosse una zona fantastica. Adesso è diventata il Piemonte, no, la Lombardia, no, ma dobbiamo andare tutti in campagna perché la campagna finalmente è libera. Ma stiamo scherzando. Dai, ma ragazzi, cosa diciamo? No, ma secondo me c'è stata una questione molto semplice. Se chiudevano la campagna, gli esercizi commerciali, tutto, c'era la rivolta in piazza. Questa è la realtà. Assolutamente. Cioè, assolutamente. Come è successo? Hanno visto gli incidenti allora di Napoli. Potevano mettere la zona arancione. E invece, siccome ci sono 20 parametri, vabbè, d'accordo, che non avete letto, però io, tu credi, non avete, scusami, letto? Flavio, tu credi nei tamponi? Perché un'altra cosa interessante è questa. Cioè, tu credi nei tamponi? Ma allora, io ti faccio un esempio per tutti e due. Se tu, noi questi giorni qui abbiamo aperto Dubai, l'avete visto. Sì. Chi va a Dubai fa il tampone, non ci sono storie. Vabbè, chi va, certo, a Dubai fa il tampone, finito. Noi non abbiamo mai preso in considerazione che chi veniva in Italia, invece di dire fai la quarantena dopo, prima, che non la fa nessuno la quarantena, fai il tampone. Noi dall'inizio dovevamo dire chi viene in Italia fa il tampone, non chi viene per 5 giorni può venire senza tampone, poi può tornare in America dove, cioè, abbiamo lasciato troppo aperto, dici? Abbiamo lasciato aperto tutto, ma se tu vieni alla frontiera di 20 miglia, entra e esce chi vuoi, ma non c'è nessun problema. Il virus non lo prendi nel ristorante, non vai nel ristorante con la metropolitana. Ma sono più incapaci o l'hanno fatta apposta secondo te? Incapaci. Ma sono incapaci, cioè, incapaci, cioè. Il peggiore chi è secondo te? La De Micheli oppure per esempio Speranza, che ha scritto un libro durante che poi ha dovuto ritirare il ministro della salute? Ma se tu fai un podio di questi qui, li metti tutti sul primo posto del podio, perché sono tutti uguali, tutta gente inesperta. Ma tu non ci credi nei rimborsi? Nei rimborsi del governo che promettono a quelli che chiudono i rimborsi, i soldi? Ma scusi, 100 miliardi a chi l'hanno dati? L'hanno dati il reddito di cittadinanza, ma chi l'hanno dati i famosi 100 miliardi? Non hanno ancora pagato le casse integrazioni del mese di marzo-aprile. Ciao Flavio, a presto, ciao. Abbracci, ciao. La Zanzara. Non fate parlare, siete braccia mancate all'agricoltura, fate dei danni anche a raccogliere le patate, tesoro bello della mamma, vai a zappar la terra che fai un favore a tanti, ma tu non devi disprezzare chi chiama e dice la sua, ma io non sono egoista, io non parlo di me, me la cucio col fil di ferro, ma chi cazzo siete, ma mamma mia lo dico io, Monica un cazzo, ti dico un'ultima cosa poi ti saluto, se tu volevi sapere cosa ti volevo dire mi avresti fatto parlare, guarda che io ho qui di fianco mio figlio e pensa a scopare tua madre. Ah, perché adesso i negri non spacciano palla? Evviva il Covid, bella il Covid lì, il Covid bello. Demone, il demone scatenato, il demone. Pazzo. Allora, Michele da Milano, vai Michele, dimmi. Che, ciao, ragazzi, che è successo, Michele? Che è successo? Ce l'hai con Gottardo? Sì. Perché questo, dimmi, Michele, lo spacciatore è un assassino. Beh, insomma, certo, il spacciatore, certo, assassino, certo, diciamo, è un venditore di morte. Calma, Michele, io dimmi. Sono maggiorenne, la conoscenza, armi, lui mi porta la droga, è un servizio alla persona, lo spaccio. E tu muori, problema, e tu muori, e tu muori, e tu muori poi di droga. No, ragazzi, però, scusa, innanzitutto, prima cosa, Michele, sì, Michele si deve sentire, perché non si sente un cazzo. Per cui, avrà prima, viva voce, prima avrà l'auricolare, uno che si droga, da cosa vuoi aspettare? No, si sente tutto rimbombare. No, amore, no. E allora mettiti bene, però, Michele. No, mettiti bene, mettiti in un punto in cui prende, perché non si sente un cazzo, dai, forza. E direi per fortuna anche. No, ma porca puttana, lo dico io, porca puttana, dai. Direi per fortuna che non si sente la stupidità, forza, di questo idiota. Ascolta, che si droga. Ascolta, sai il vero problema qual è? È il provvisionismo. Il fatto che non si parla, bisogna avere cultura. Il vero problema è la droga. No, ma mi sembra di capire una cosa, Michele, che tu sei cultura, che tu della sei... droga, perché se i ragazzi conoscono la materia, la cultura della non droga. Si fanno da ragazzini, te lo assicuro. Sì, e come certo. Lo so, e ho provato io, amico. Tu hai, tu che no. Droga hai provato? Che droga hai provato? Eroina l'hai provata? Vabbè, la canna in generale, droga leggera. Ragazzi, lo fate parlare però, dai, forza Michele, che cosa hai provato? Ho fatto l'ho fumata l'eroina e l'ho pippato, ho fumato l'oppio. Per le droghe pesanti. Ma quanti anni hai? Quanti anni hai? Io ho 36 anni, sono di Milano. Io quando andavo in piazza alla sera gli dicevano: ma cosa fai? Non fumi, non pippi. Cos'è? Stai male? Era così la piazza a Milano, ragazzi. Sì, però adesso Trent non è più così, non lo so. Ma insomma, che era così, dipende quale piazza. Io andavo in tante piazze, non ho mai, cioè, non ho mai incontrato quel. Ma che lavoro fai? Adesso che lavoro fai, amico di 36 ragazzi, anni? Ragazzi, lo fate parlare o no? Cazzo, fermi tutti un attimo. Allora, Michele, non ho capito bene. In qualche caso. Ho una figlia, ho un lavoro, faccio il consulente. Non mi lamento, però tu dici, tu sbagli, perché il problema è il fatto che è vietato. È lì che si crea la dipendenza. Il fatto che è vietato. In alcuni casi è anche vero, però spacciare eroina libera, spacciare ogni tanto e ammazzare se tu hai cocaina libera. L'eroina è stato. Io legalizzerei tutto, però metterei tutto a gestione dello Stato, così lo Stato sa chi si fa, giusto, sa quanto si fa giusto. E sa che cosa si fa. Perché ragazzi, tu come quindi c'è una libertà di drogarsi, libertà di drogarsi. Non è sbagliato. Ascolta, hai visto cosa è successo negli Stati Uniti? Quindi tu, Cruciani, tu saresti contento che tua figlia si drogasse? Saresti contento che tua figlia fosse l'eroina? Io sarei contento se provasse e capisse di che cosa si parla. No, questa è una puttanata. Questo no, quindi saresti contento che tua figlia si facesse in vena o fumasse l'eroina? Mi sono fatto un trip con l'eroina. Io credo. Guarda, no, questo, allora porta l'eroina a casa di tua figlia. No, ma stai zitto un attimo. Allora, se me la trovi buona, questa è una stronzata. Ma tu ti droghi ancora? Ma ragazzi, mi fate condurre questa trasmissione o no? Cazzo, allora, ma non capisci un cazzo tu quello che dice. Allora, Michele sta dicendo una cosa. Michele sta dicendo è giusto provare. Io penso che invece non sia giusto provare, perché se uno con questo principio uno si spa per decidere se l'eroina va bene o no, se la dovrebbe iniettare in vena. È una cazzata. Cioè, è una puttana. È una cazzata, punto. Per cui. Io dico che ci vuole cultura. L'America. Ma che c'entra? Quello è sicuro. Bisogna conoscere le droghe. Su quello sono d'accordo con te. Però no. L'Olanda, gli olandesi non si rinchiudono nei coffee shop. Ma non è che uno deve provarlo per forza. Io conosco le droghe, ma non le ho mai provate perché magari ho letto qualche cosa. Ma non è che le devi provare. Ma ho capito, ma tu hai detto bisogna provarle. Hai detto che bisogna provarle, cazzo. Dai, ciao, Michele. E che se la trovasse buona. Allora ragazzi, in Puglia ultime ore prima di un semi lockdown. La gente comunque non potrà uscire a farsi i cazzi suoi. Beh, quello anche adesso. Beh, no, adesso la no. La sera. Adesso la no. Sera lo stesso, guarda. No, la sera no, non e so. E non vanno a scuola. Però attenzione. La nostra amica trans, Alessia Nobile, che saluto, ti abbraccio. Ciao Alessia. Ciao. Allora, ha ricevuto non so quante telefonate negli ultimi giorni. Cosa è successo? Cioè, qual è, diciamo, l'effetto che c'è stato dopo l'annuncio della Puglia come zona arancione? Beh, ieri e oggi la fretta, le chiamate, perché appunto dovevano concretizzare, dovevano iniziare a prendere l'ultimo pene prima del lockdown. Così è stato. Infatti tra ieri e oggi non sono riuscita a riceverli tutti, perché era impossibile, avevo bisogno di qualcuno che mi supportava, ma loro vogliono me, soltanto me, ma perché dicono tu sei quella che non si vede, perché non mette foto hot, ma che severa, perché c'hai quello che c'hai, loro lo sanno. Il gingillo che c'hai. Ma insomma, non ho capito una cosa. Dunque, in questi ultimi giorni, tu dici, dopo l'annuncio di Conte, in queste ultime ore, c'è stato una specie di corsa all'ultima botta con la grande trans, o no? Il telefono è impazzito praticamente. Tra ieri e oggi, ma a tutte le ore. Fammi un esempio. Chi è venuto? Ovviamente la maggior parte passivi, come al solito, no? Tutti passivi, ma sai una cosa? Dimmi, che io non lo sapevo, l'ho scoperto ieri sera, che a Dublino fino a fine mese c'è il lockdown, c'è un italiano che vive a Dublino che era qui e si è venuto a prendere l'assaggio, il mio assaggio, prima di ripartire a Dublino, quindi anche persone che non vivono in Italia. Cioè persone che magari vanno incontro a un altro lockdown, prima di ripartire, tac, l'assaggio di cazzo dalla signora. Lui è un italiano che vive là. Però sta qua e dovrebbe ripartire. Però prima di andare ha detto: me lo vengo a prendere. Casomai arrivo là, è tutto bloccato e non trovo quella che fa per me. Però scusami, Alessia, mi stai dicendo praticamente che hai fatto negli ultimi giorni una specie di open day? Cioè, hai fatto una specie di. Ieri oggi open day, ho aperto saldi, tutto, basta. Stanca, devo recuperare. Mm. Sei a saldi? Saldi, si svende tutto. 20% out, 40%. Ma ti pare che uno con tutte le emergenze che ci sono, la prima cosa che fa è chiamare il trans? Ma di che stiamo parlando? Beh, certo, ma questa ma è la rappresentazione realtà, però. Date, ma quella è garanzia. Ma che garanzia? Devono chiudere tutto, prima di chiudere si fanno aprire. Scusa. Ma cosa dice? È paradosso, stanno per chiudere, io mi faccio aprire. Ma chi si fa aprire? Ma cosa dice? Però scusa, la realtà è questa, scusa, mi sta descrivendo una situazione reale, perché mi ha mandato anche degli screenshot, il numero di chat, di messaggi. Gli ultimi giorni prima della chiusura in Puglia, evidentemente la gente lo vuole pigliare nel culo, perché di questo si sta parlando, cioè pensa di non poterlo più prendere nel culo a un certo punto. Ma già accade con la chiusura, in più uno vuole pure fare doppia chiusura. Scusami, tu praticamente fino alle da oggi praticamente fino a una certa ora. Io fino alle 24 sono ancora online, dalle 24 alle 5 di domani mattina lavoro con l'asta, con l'asta o con comunque come con l'asta, con l'asta, come l'asta, no, l'asta. Perché con l'asta no, perché non si può circolare con la videochiamata. Dalle 5 di domani mattina alle 18 con l'asta. Come con l'asta? Che vuol dire? Ma quella l'asta è già un arnese utilizzato nello scorso lockdown. Una mazza di legno lungo un metro e venti, attaccato diciamo alla fine il pene, e con quello diciamo c'è il rapporto. Cioè tu praticamente non so, accogli delle persone con una mazza e alla fine della mazza c'è una specie di pene di plastica. C'è un vibratore a pene che ho bloccato, io ho fatto un meccanismo che l'ho bloccato con la mazza, in modo che la penetrazione avviene non carnale, ma col metro di distanza. Ah, col metro di distanza. Cioè, tu adotti quella mazza è lungo un metro. Ma non ho capito. Allora, la gente viene durante il periodo diciamo di chiusura, tu per non correre rischi inculi a un metro di distanza grazie a una specie di mazza di legno, dove alla fine di questa mazza di legno è attaccato un vibratore. Sì, con le mascherine. Quindi io posso ricevere, mantengo le distanze e si va avanti. Cioè dalle 18 in poi. Perché io l'ho fatta vedere la mazza. Sì, è vero, me l'ha mandata. Mi ha mandato questa mazza abbastanza impressionante. Ma la roba inquietante, uno perché dovrebbe pagare per sta porcheria? Ma tra un colpo di mazza e l'altro. Ma guarda che anche molti uomini lo fanno con lo strap-on con le proprie mogli. Sì, non è molto diverso. Sterilizza per normativa Covid, per protocollo da DPCM. Certo. La mazza tra un trattamento e l'altro? Il pene è il preservativo, so perché ogni volta viene cambiato, quindi comunque anche sul pene di plastica viene messo il preservativo. Quello o il disinfettante, non si scappa. La colonnetta del disinfettante vicino alla torta, quindi uno arriva e si disinfetta le mani con la mascherina che non toglie ovviamente. Se uno vuole può anche tenere i guanti lattici, altrimenti no. Scusa, quindi ma fino a oggi le persone che sono venute però venivano inculate da te senza mascherina, diciamo. Sì, sì, no, la mascherina sì, la possono tenere, io la lascio tenere la mascherina. Sì, ma nessuno se la tiene, cioè. Beh no, dai, perché? Cioè tu inculi la gente con la mascherina? Con la mascherina, sì, anzi, molti si è creato anche il gioco dell'infermiera e del dottora. È la solita roba, ragazzi, è così. Comunque la notizia è questa: un'impennata di persone che si fanno inculare in attesa della chiusura della. È una vigilia, l'ho chiamata la vigilia del lockdown. Sì, perché in realtà tutti stanno qua dietro la porta che aspettavano, perché dovevano prendersi il pene prima di mezzanotte. Come dal medico curante, no? Stavano lì in sala di attesa. Ragazzi, ma questa è statistica. È statistica questa. Scusa, se hai ricevuto più chiamate in queste ore sarà la verità. Scusa, però siamo in collegamento con il super cattolico Maurizio Ruggero della l'associazione, dell'associazione Sacrum, Sacrum Imperium. Imperium. Caro Ruggero, chissà, hai sentito cosa su quanti suoi colleghi di fede sono lì in fila. Che ha sopportato pazientemente, oltre che io Gottardo, che dice scemenza abitualmente, sì, tutti i discorsi idioti e animalate di costei, addirittura con la sodomizzazione con asta. E con disinfestazione, ci mancano anche rapporti sodomitici disinfestati. Ma e scusami, Ruggero. Ma che popolo di imbastarditi è questo qua? Ma che questa è la realtà. Popolo di animali? È gente normale che va a godere da Alessia. Che per santificare la chiusura della casa, che fanno? Vanno a farsi sodomizzare addirittura con asta, perché l'importante è che abbiano la mascherina. Ma qual è il problema? Non ho capito. I problemi sono mille, a cominciare dalla sodomizzazione, che è già una porcheria, perché sono rapporti. Ma la chiedono loro, non la propongo io, la chiedono loro. Lei prende le stipendi però da questo, cioè ci lucra pure. E allora, e farli fare i peccati mortali, cioè oltre che essere un'industria di peccati mortali, lei ci prende sopra anche i soldini. Più schifoso la mia di è una vocazione, la mia è una vocazione, io sono un'attrice, dopo quella di Bergoglio, guardi, la sua è la più profumata delle vocazioni che vediamo in questo periodo, guardi. Ma non ho capito, che male fa? Vuole, che rapporti sodomitici. E una che li pratica, guardi, veramente potete fare veramente proprio come si diceva una volta, no? Camicia e l'altra parte. Io faccio solo del bene agli uomini, sono una croce rossina del pena. Questo periodo faccio la croce rossina del pena. Ma abbiamo capito infatti che lei ha la vocazione di quella roba lì. Abbiamo capito perfettamente. Ma io non ho capito una cosa, secondo te andrà a finire all'inferno la signora Alessia Nobile? Grazie al suo. Vedo che sta facendo di tutto, cioè, se continua ad andare avanti così, cioè, vuol dire è una macchina a vapore che va verso l'inferno. Ma al massimo all'ospedale, ma quale inferno? Finché ce la farò, il mio pene darò. Finché ce la farai, faccia anche le rime, vedrà l'inferno quanto la faranno cantare. Le faranno cantare veramente proprio tutti i suoi versi. Io faccio cantare il mio microfono. Ma quello il mio microfono canta. Quello che è drammatico è vedere come gli uomini, per esempio, io penso ad esempio alla tregua di Natale. Adesso, voi sapete cos'è la tregua di Natale? La prima guerra mondiale, ovviamente, se no non sarebbe una cosa seria. Infatti, giustamente voi non la sapete. Allora, la tregua di Natale, il 14, la notte di Natale, prima durante la prima guerra mondiale, il primo anno di guerra, a un certo punto si interrompono, si cominciano a cantare da un fronte all'altro gli inni natalizi. Allora? E c'è una tregua mai dichiarata, ma in realtà in cui i soldati si affratellano. E allora? Allora, qui i soldati, il giorno prima di partire per la guerra, erano persone serie, sicuramente sono santificati, tant'è vero che la notte di Natale... Vabbè, allora, andiamo! E invece, come andiamo che? Stabilisco io i miei orari. Dai, forza! Invece voi altri, alla vigilia della chiusura, che è una porcheria pazzesca, che è una truffa pazzesca di un governo che si campa su queste cose, cosa proponete? La sodomizzazione a livello industriale. Aspetta, Ruggero. Questo è stata una sorpresa anche per me. Via, non lo sapevo nemmeno io che si sarebbe fatto tanti. Non meritate nient'altro che la dannazione. Io ancora vi accordo un po' di giorni e solo per la sua misericordia, per il resto fate schifo. Scusami un attimo, Maurizio. Maurizio, io posso dire una cosa. Ma che schifo ha ragione? Ti rendi conto che tu sei d'accordo? Ma dico che fate schifo, ha ragione. Ma sei d'accordo, Ruggero? No, non sono d'accordo. Ma fate schifo perché parlate di queste cose in pubblico, poi in privato. Allora, posso dire una cosa, ragazzi? Allora, la questione è molto semplice. Io preferisco essere sodomizzato. Che è il caso dei maschi che vanno con Alessia. Questo abbiamo capito che ti piace. Se dovessi scegliere essere sodomizzato oppure essere casto senza farmi una sega come Ruggero, ragazzi, ma c'è una via di mezzo, però. Se dovessi essere messo di fronte a una scelta, essere sodomizzato da Alessia Nobile o essere nelle condizioni di Ruggero, di essere sostanzialmente uno che non si fa una pippa perché prima si deve sposare, credo che sceglierei Alessia Nobile. Vi posso dire, fermi tutti, torniamo tra un attimo. Alessia Nobile e Maurizio Ruggero, fermi tutti. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Arezzo, sono di ritorno da una libreria Giunti in cui il libro di Cruciani era esposto nella sezione saggistica al fianco di Corrado Augias. Cioè, io non ho parole, tra l'altro almeno hanno avuto il buon senso di metterlo nello scaffale più alto, proprio in modo che i bambini non possano vederlo. La Zanzara. Nella chiesa di San Lorenzo a Viandronno, oggi con noi presente anche Don Luigino Aldegheri, che come al solito si trova al suo organo, e io intanto ne approfitto per presentarvi Michael, la nuova acquasantiera digitale. Prima di iniziare ci tengo subito a precisare che nessuno ha intenzione di sostituire il millenario rito dell'acqua santa con un'apparecchiatura digitale, ma intanto che ci sarà il Covid e la pandemia sarà presente, questa sarà un'ottima soluzione per mantenere viva questa importantissima tradizione religiosa. Acqua santiera digitale, siamo arrivati a questo, capito? Con l'approvazione di Parenzo. Siamo arrivati a questo, con l'approvazione di un'altra azienda. No, io non mi occupo di acqua santa. Siamo arrivati, caro Ruggero, siamo arrivati all'acqua santiera digitale, capito? Allora, posso dire, per fatto personale, appunto, visto che riguarda la causa della tradizione, spiegate a questa che non si tratta di una tradizione importantissima, si tratta di un sacramentale, che è una cosa diversa. Beh, vabbè, che male c'è però? Eh no, è la cosa più importante ancora, il sacramentale. Sì, ho capito, ma, cosa ha fatto di male? Digitale, ottimo, digitale, ma innovazione, che, viva. Ma che innovazione? No. Allora, intanto il digitale non funziona, non è sacramentale per niente, ma l'acqua santa, quando uno va in chiesa e si segna con la croce, dipende naturalmente dalla disposizione che ha, riceve del grazie. Scusi, signora Alessia, aspetta, voglio capire da Alessia Nobile se lei, non penso se che lei è cattolica e crede, la signora trans prostituta. Sì, molto. Crede in Dio, bello, bello. Lo vedi, Ruggero, la signora trans crede in Dio, è molto cattolica, molto credente. Certo, persino Bergoglio, che favoreva le unioni omosessuali, adesso crede in Dio, figuriamoci che meraviglia. Cioè, il problema, come dice il nostro Signore Gesù Cristo, dice: dovresti essere felice. Ascolta un attimo, che almeno una volta senti una roba cattolica. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio avrà in eredità il regno dei cieli. E che c'entra? Vuol dire, Cruciani carissimo, vuol dire che bisogna rispettare i 10 comandamenti, non andare lì e dire: Signore, io ti volevo bene, io sono sempre creduto. Se ci credi, rispetti. Ma lei fa del bene, la signora Alessia Nobile fa del bene. Fa del bene, incula le persone, le rende felici, Se ci credi, rispetti come te, e non dici quella scemata che hai detto prima, Cruciani, cioè quella di dire: ma io se potessi lo prenderei. Vedrai quando compari davanti al Padre Eterno queste scemenze qua. Scusami Ruggero, voglio chiedere una cosa. Il demonio sarà il primo che ti accuserà. Ma quale demonio? Voglio chiedere una cosa. Il tuo demone personale, ciascuno ha un demone personale, non è proprio difficile, ma quasi, oltre che un angelo buono, un angelo custode, ma anche un demone, tra virgolette, custode. Il tuo demone custode di Cruciani dirà: sapete cosa ha fatto Cruciani? La sera del 5 novembre 2020, parlando con Ruggero, che io odio, io demonio, no? Dice, parlando con Ruggero, ha anche fatto questo bel discorso, ha detto che io preferirei essere sodomizzato. Ma bravo Crucianone, piuttosto di arrivare illibato, piuttosto di arrivare illibato come te, meglio essere inculati. Ma comunque, perché ragioni da peccatore, caro Ruggero, voglio chiederti una cosa. L'altro giorno un prete in provincia di Macerata ha detto, ha messo sullo stesso piano l'aborto e la pedofilia, dicendo anzi che la pedofilia, che l'aborto è più grave della pedofilia. Ma tu scherziamo, tu che ne pensi, Ruggero? Ma è evidente che è così, perché ammazzare una persona è più grave che abusarne. Cioè, questa ammazzare una donna è più grave che violentarla. È evidente. Ma che sei pazzo, non ci vuole un genio per capire. Ma sei pazzo, ma completamente pazzo, tu, vergognati. Parezzo, tu sei completamente pervertito sulla sei logica mondana. Sei. Che tu sei matto, complice di un crimine. L'assassinio è peggio della pedofilia. Sei complice di un crimine. Ma tu sei complice di un crimine. Quello è un diritto, l'altro è un crimine. Vergogna di Ruggero. Certo, il diritto di ammazzare. Ma fai annotare al tuo demone personale anche questa cosa stasera. Perché il Padre Eterno prenderà buona nota. Ciao, il tuo Ruggero, demone, ciao, anche ciao. Questa che hai detto adesso. Vergognati di questa cosa, di avere detto che l'aborto è peggio della pedofilia. Io con gli assassini, no, parentele. Voi laicisti, sì. Voi siete lordi di sangue, lordi. Di bambini abortiti, perché sostenete che questa cosa. Io questa roba non la faccio. Ma tu sei pazzo. Hai detto che è peggio l'aborto della pedofilia. Pazzesco. Sei pazzo, l'aborto è un diritto, una libertà delle donne. Certo, ammazzare i bambini, ma voi siete lordi di sangue di bambini. Ma questo è pazzo. Ma come potete pensare di dire? E la pedofilia? La poesia è una cosa molto grave, evidente che è molto grave. E allora, ma come quello è un reato? Ma ammazzarli i bambini, no? Cioè, però, ci vuole un genio per capirlo. Però Giuseppe, no? Ma che Giuseppe, senso ha? Il senso della follia. Per una certa parte, per fortuna deviata, invoco i vostri demoni che annotino bene tutte le fesserie che avete detto stasera. Vabbè, ma ciao, Ruggero. Nel giorno del vostro giudizio. Ciao. Dente del giudizio. Allora, intanto ragazzi, in Calabria culla la rivolta, sale la rivolta, no? Questo sale succede la rivolta quando c'è un'irresponsabilità di chi la governa. Chiamiamo Polimeni, vai, Polimeni, grande calabrese, cronista calabrese che incita alla rivolta, dice che bisogna tenere tutto aperto, eccetera, eccetera. Chiamiamo. Chi è? Sono Cruciani, come andiamo? Caro Cruciani, come stai? Bene. Sei incazzato nero, mi sembra, no? Tanto, perché in pratica la situazione è legata al problema che stanno vivendo i commercianti per il lockdown. Per la zona rossa, certo, per la zona rossa. Assolutamente sì. Ma dove non sono i contagi, professore, direttore, mi scusi? Dove? Amico, come sta? Sì, lei vado a fare in culo. Bene, dove sono? Dove non ci sono i contagi? Me lo dica così io ci vengo volentieri. Dove non ci sono i contagi? Me lo dica, dove? Dove non ci sono i contagi? In Calabria sono 200. Ah, in Calabria non ci sono contagi? 245. Cioè non ci sono contagi in Calabria? Ascolta, professore, il 4.000, voi volete coglioneggiare, scherzare, giocate quanto volete. Perché lo hanno fatto? Se allora in Calabria non c'è problema. Perché politicamente non valiamo un cazzo, questa ma è la verità. Ma non dica stupidaggini, la regione ha fatto un trucchetto, glielo dico io, la Calabria ha fatto un trucchetto ed è passata da 26 a 10 ricoveri in terapia intensiva, perché avete calcolato quelli in terapia intensiva solo quelli intubati, quindi avete fatto un trucco e sta venendo fuori Parezzo. Perché non ho capito perché si sta arrabbiando con il sottoscritto quando sono io a denunciare fatti gravi del territorio calabrese, che questa politica degli ultimi 25... La Calabria è passata da 26 a 10 ricoveri in terapia intensiva, e questo lo avete fatto perché così per evitare la zona rossa, questo avete fatto un trucco Parenzo, i trucchi chi li giocando ha fatti, con la salute degli altri, scrive ascolta, Repubblica. Parenzo, i trucchi se li ha fatti si assumeranno la responsabilità penale e civile di chi ha combinato questi guai. Ma come si è passati da 26 a 10? Come si è passati? Parenzo, sì, ma come si è passati i ricoveri? Come siete Parenzo passati da 26 fermo, a 10? Cruciani, scusa, 150 posti di terapia intensiva. In questo momento ci sono ricoverati in terapia intensiva 11 persone. Ma qua dice 256 contagi. Scusami, allora, amico mio, allora che sono pazzi all'Istituto Superiore di Sanità? Sono pazzi. Allora, i numeri sono questi. Mi vuoi dare i numeri della Campania e della Sicilia? La Campania 4.200 contagi. Ma non c'entrano i numeri assoluti. Ma non c'entrano i numeri assoluti, dai, il su. Il problema è che noi abbiamo una... Allora, il problema è che la nostra sanità è fragile. È fragile perché se la sono mangiati in 25 anni. Questi porci politici l'hanno rovinata. E dov'eri distrutta tu? E dov'eri capito tu? E tu dov'eri? Dov'eri? Dov'eri? Sempre colpa dei politici. Dov'è la società civile calabrese? Dov'era in questi 25 anni? Sempre accusare gli altri. I commercianti hanno ragione, devono tenere aperti, bisogna tenere tutto domani aperto. Per me i commercianti devono tenere aperto. Come perché devono tenere aperto? Ma tu mi devi dire come mai la Campania, avendo una situazione ancora più grave della ancora nostra, rimangono aperti? Dimmelo perché. Perché no, dimmelo tu. Perché? No, ma dimmelo tu perché. Perché hanno spaccato il mondo in Campania, sono usciti in piazza, hanno spaccato tutto e per ordine pubblico avevano paura di questa situazione. I calabresi non hanno il sangue nelle vene, devono rompere le catene e scendere in piazza e dire no a questa violenza delle famiglie che sono distrutte economicamente. Ma stai istigando praticamente a scendere in piazza e a spaccare tutto? Non Polimeni, stai dicendo questo, vergognati, stai dicendo che bisogna fare delle... Ma è roba incredibile, Cruciani, guarda. Non mi provocare, ho detto che hai detto che violenza... mentre i campani hanno ottenuto quello che volevano grazie a queste cose, tu invece i calabresi non hanno il coraggio di fare quello che hanno fatto i campani. Ho detto che i calabresi devono scendere in piazza, ho detto senza violenza. questo ho detto. Devono aprire tutto comunque, i commercianti devono aprire, devono i ristoranti. Aprire tutti, perché oggi ho sentito decine di commercianti. Pure i ristoranti. Disperati. Questo è giusto però, questo è giusto. Questo, cosa questo è giusto, cioè, questo va è bene, giusto. Questo... Gente disperata, ristoranti, questo... eccetera, baristi. Questo è giusto ragazzi, questi sono disperati. Gente come che deve licenziare, non sa come fare, non può neanche licenziare. Parenzo, questa è la storia. Parenzo ha il culo al caldo, Polimeni, Parenzo lo dice. Capisci, per... Parenzo che sa fa il fricchettone. Non c'entra niente questo, il fricchettone. Chiamalo Parenzo, è facile parlare seduto così. Scendi in piazza. Scendi in piazza. Scendi in piazza, gira come 24 ore al giorno il territorio calabrese e capirai. Vai in Calabria, non fare, certo, non fare, non se, fare cioè, il fricchettone, certo. Fricchettone. Dai, su. Ma comunque Polimeni mi sembra capo della rivolta calabrese, mi sembra di capire com'è. Sono un capo popolo, se lo devo fare lo faccio volentieri. Ma dove cazzo? Sono un capo popolo, evviva, evviva, sono un capo popolo. Di qualcosa Parenzo, questo ma cosa vuoi che dica di fronte a uno che dice sono un capo popolo della Calabria? Ma io scappo in Svizzera piuttosto. Ascolta Parenzo, se serve a svegliare le coscienze, sì. Svegliare le coscienze, ma io piuttosto vado in Libano, in Libia vado piuttosto che sentire uno come te, in Libia. Vedi cosa fai? Ma non hai paura del Covid? Non hai paura del Covid, Polimeni? Io ho paura ed ho rispetto della malattia. Io rispetto, io uso le mascherine. Ho capito, ma vuoi andare, vuoi far aprire tutto, andare in piazza, a fare le manifestazioni? Non ho detto questo. Ma come vedi? No? Non ho detto ma come questo. Non detto? Ho detto solo capo della rivolta. Adesso non più capo della rivolta. Ma dimmi una cosa, un negozio di mobili che vende mobili, giusto. Quando entra una coppia per scegliere una cucina o una cameretta, come l'assembramento? Questo è giusto. Dov'è il problema? Ma questo chi è il tuo assembramento? Ma cosa stai dicendo? Problema, Parenzo, rispondi! Rispondi, cavolo! Rispondi, certo, rispondi! Non c'è nessun assembramento! Vuoi far fallire i mobilieri calabresi? Non c'è nessun assembramento! Vuoi far fallire i mobilieri calabresi? Ma non voglio far fallire nessuno! Vuoi far fallire i mobilieri calabresi? Dillo subito, dai! Parenzo, io ho molto rispetto per la tua persona perché sei quello più equilibrato della coppia, però non fate il gioco dei due compari con me. Capito? Non fare il gioco, non fare il gioco, dai. Non faccio nessun gioco. Polimeni, ti saluto, avanti tutta, mi raccomando. Un viva abbraccio, la, viva lavoro, la rivolta, ragazzi, viva la lavoro, rivolta, ragazzi. Viva la rivolta, mi raccomando. Grazie, grazie, un abbraccio. Ciao, ciao. La Zanzara. Cruzzo, mettimi in contatto con Flavia da Treviso, mi eccita da morire, lei è la cannellina, cloro cannellina, quel cazzo che è. Magari anche la scella pezzata. Le poluzioni notturne sono uno stratagemma ideato dalla natura. Infatti lo sperma deve essere sempre giovane, fresco, vigoroso. Se tu superi 21 giorni senza eiaculare, e bravo Cruciani non sdoganare l'altra parola, anche a me non piace volgare. Se tu superi 21 giorni, lo sperma si deve sempre rinnovare, quindi avrai poluzioni notturne. Ludovico da Padova, Ludovico da Padova, vai. Beh, amico mio, ma che io ti devo ringraziare. Perché? Perché mi devi ringraziare? Grazie al libro di Giuseppe Cruciani, sì, Nudi, sì, ho scopato e ho trovato una scopa amica. Posso dirti una cosa, amico mio Ludovico? Credo che il libro non sia utile per queste cose qui. No, non certo, credo che sia utile per queste cose qui. Adesso è utile, spiego, è utile, cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza per mille altri motivi. Dimmi. Ti spiego, ho messo la storia del tuo libro su Instagram, mi ha risposto questa. Ho capito, allora ti sei divertito un po'. Ti sei divertito un po', grazie all'Instagram, ho capito. Esatto, questa conoscente mi ha risposto, mi ha chiesto domande però, sul libro, su quello potevi, che contenesse. E dunque attraverso il libro, sei riuscito a scoparti una. Mi beh, amico, chiesto, devo ma dire era che molto sei al curiosa, top. Ciao amico mio, ciao, grazie. Grazie. Gerardo, provincia di Salerno, vai Gerardo. Luciani, salve, senti un po', ma tu cazzo senti le parole sempre di attore, quel coglione che dice sempre cazzate e non sa mai parlare. Tu perché dice cazzate? Spiegami perché dice cazzate, Briatore? Perché dice cazzate? Perché non sa quello che dice, l'ha sempre fatto da quando è stato intervistato in televisione. Ma quali sarebbero le cazzate in questo caso? Dimmi, lui non, come molti italiani, dice, come moltissimi italiani. Non ci sono morti. che dice che non ci sono morti. No, chi ha detto che non ci sono morti? Non ha detto che non ci sono morti per il Covid. Che cazzo dice? Non ha detto così, cretino. Non ha detto questo. Invece no, cretino, te l'ho detto perché. Ma vai a cagare. A un certo punto, Briatore, che tu difendi sempre, non sa neanche parlare perché dice che nel Veneto non ci sono morti. Invece anche lì ci sono decessi. Ma non ha parlato di morti. Ha detto un'altra cosa. Ha detto che gli italiani non capiscono, e anch'io non lo capisco, perché la Campania è fuori dalle zone rosse. Non hanno spiegato niente. Non gli italiani letto, questa non cosa ascoltato. Dell'algoritmo e questa cosa dei 21 criteri non la capiscono. Ma non sei il portavoce di Speranza. Ma la notizia gliel'hai spiegata Gottardo, o no? Diglielo tu, ti prego, dai, su Gottardo. Non l'avete capito. Non l'avete capito neanche voi. Il problema è, uno può criticare, ma deve capire che cosa c'è scritto, però. Sì, d'accordo, uno è tutto giusto criticare. Allora, è tutto no, giusto. Ma tu sai i 21 punti quali sono? Ma tu puoi pensare veramente che ci si basi su quello? Poi uno può criticare, ma non sapevate neanche dell'esistenza dei 21 parametri. Ciao, lo sapevi solo tu. No, ma ascoltando il radiogiornale almeno. Almeno. Basta andare sull'internet. Non dico leggere il Corriere, il Sole, la non dico leggere, ma almeno allora, ragazzi, ma perché non fanno il cinegiornale, per esempio? Quello lo facevano all'epoca, diciamo. Allora, io vorrei capire però come farà una nostra amica che si chiama Lea ed è moglie, madre, ma soprattutto protagonista di varie gangbang, cioè dire amante del sesso anale, soprattutto gode solamente con ancora multiple penetrazioni anali. Pazzesche. E che ti devo dire? Gode anche ancora col pissing, gode con il bucacche, gode solamente con queste cose qui, legittimamente. Cara Lea, ti abbraccio, come stai? Grazie, tutto bene. Insomma, potrebbe andare meglio sicuramente, dato il periodo. Ecco, sono io incazzata nera. E perché? Perché sei incazzata nera? Perché da domani siamo in lockdown e quindi tutte queste scorrerie non si possono più fare. Tu sei in Lombardia, mi pare di capire. Sono fuori regione, tra l'altro. Tu sei fuori regione in che senso? Fuori dalla Lombardia. Sono fuori dalla Lombardia. Dunque non vai in lockdown in realtà. Eh sì, sono anch'io in lockdown. Fuori da Milano in realtà. Dove sei? In Piemonte allora sei? Sei in Piemonte? Preferisco non dirlo. Va bene, sei in lockdown. Potresti essere in Valle d'Aosta, potresti essere in Piemonte, potresti essere in Lombardia, potrebbe essere... Basta, certo, diciamo. Certo. Però voglio dire una cosa, cara Lea. Tu sei praticamente in questo momento in gabbia. Vabbè, come tutti, perché per due settimane. Anche con mio marito non facendo sesso anale è un problema. No, come non sarà mica quello il problema della vita, però, signora. Cercherò di aggiustarmi da sola, insomma, allenandomi, portando plug mantenere la mia elasticità. Non è l'unico modo in cui gode. Ma che cosa ti devo dire? Ma che casa sarà mai con tutti i problemi che ci sono nel mondo? Ma se una gode solamente in questo modo, tra l'altro con multiple penetrazioni, anche doppie, forse anche addirittura triple, o no? Triple non è fatta. Assolutamente sì, anche doppie. Anche doppie. E se una suo marito, ancora di più si gode. Scusami, cara Lea, si gode di più con la doppia anale oppure con il pissing? Cioè, questo è interessante come cosa. Cioè, provi con più la doppia anale. Con la doppia anale. Cioè, con la doppia anale. La doppia anale per te è il top. Per te è il top assoluto. Sì. Sentire questa sensazione di apertura è il top. Top assoluto. Ecco, voglio dire, come farai nelle prossime due settimane? Guarderà un film, legge un libro. Speriamo che siano solo due. La vedo lunga, però speriamo. E cercherò, ovviamente, con mio marito queste cose non le faccio. Cercherò di portare pazienza. Ma con tuo marito non l'hai mai fatto? Ma perché ovviamente? No. Perché ovviamente? No. Perché devo mantenere comunque quello a cui sono arrivata, altrimenti mi si chiude tutto. Ma no, noi diciamo un'altra cosa. perché non fai con tuo marito sesso anale? Cioè, perché non ci hai mai provato, non è adatto, c'è il pisello piccolo. Qual è il punto? Non è tipo da queste cose. Ah, non è tipo da sesso anale. Ho provato tempo fa, però non è andata a buon fine, insomma. E quindi... Ma perché non riesce o perché non gli va? Non perché lo so, vecchio. Non ho mai toccato sarà il discorso. Troppo vecchio, poi, insomma, si vede che non è abbastanza poi dopo potente. Anni di matrimonio, insomma, le cose non sono non così più fresche. Più. Cioè, non fai più sesso con tuo marito, diciamo la verità. Quanti anni ha Lea? E non posso dirlo, sono una quarantina più o meno. Ma non perché dobbiamo svelare tutto? È chiaro che poi non possiamo svelare tutto. Ma no, una quarantina. Questa signora Lea. Poi mi invito tutti quando si riapre di nuovo che si potranno fare queste cose, vi invito tutti. Ma io non voglio svegliare sulla parte, ma perché non, perché non vuoi partecipare? Scusa, Parenzo, ma ti stai invitando, devi essere gentile. Non me ne frega nulla, magari poi si cambia anche idea, ma non vita, cambia nessuna mai. Idea non verrei, non scusi, verrei mai la, la situazione ideale di Lea qual è? Quella in cui ci sono, diciamo, 5, 6, 7 persone intorno che si alternano, oppure anche, diciamo, tutti, un campo da basket, tutti i buchi tappati, tutti i buchi tappati, questo ma è interessante. Non ho preferenze, prendo quello che viene, va bene tutto, assolutamente. Importante? No limits. Ah, no limits addirittura. No limits. E come deve, e come deve finire la cosa? Come si conclude, diciamo, la grande orgia? Diciamo, la grande orgia, non, diciamo, non vorrei saperlo prima di col cena. Bucache. Io prima di col cena bucache, col bucache finisce, ragazzi, cioè, finisce col bucache, c'è dire con il fatto che mi piace che avevo questo Master Show, mi aveva scelta per questo evento del 14 dove teneva il corso per i giovani master, e quindi mi piaceva l'idea, insomma, di essere usata da lui e dagli aspiranti master. Sì, mi eccitava sta cosa, e invece niente, non sa da fare, non sa da fare di farla. No. e la cosa ti fa un po' incazzare, diciamo, il fatto beh, che... certo, direi, perché secondo me era una bellissima esperienza, ragazzi, poi con Master Show, insomma, ragazzi, il fatto di essere scelta da lui, certo, non c'è incredibile, dubbio. Incredibile, scusa, non era da poco. Ecco, quei certo. Piselli che tu incontri nella tua vita in queste gang devono essere di un certo tipo, oppure alla fine te ne freghi, diciamo, basta che penetri, basta che stanno dentro e ti fanno godere, ecco, ma io questo... guardo la persona, non guardo il cazzo. Beh, adesso la persona, adesso no, diciamo, diciamo, guardo anche quello, ma io guardo la persona, guardo negli occhi la persona, ti prego, io tollero tutto, lei è sposata coi figli e il Master Sean che le manca, esatto. E le 8-9 persone, ma che adesso lei dica che in una situazione di 20 persone lei guarda la persona, signora mia, io guardo la persona, ma non ha neanche il tempo uomo, di guardarla, ma cosa guarda che hai circondato la sti maiali, ma di che parla, per me questo è il top. Ma signora Lea, ma per carità di Dio, però lei guarda, dice un'altra cosa, guarda, non è che dice guardo la persona, diciamo, ma il carattere, figurati, guarda la persona arrapata, però signora, sì, effettivamente è un po' forte, non guardo il cazzo, guardo la persona, adesso francamente detto da lei, a me non me ne frega niente, mi pare un po' troppo, sta squinternata qua, dai ragazzi, ho capito, però anche a te è sembrato troppo, Davide. Ma a me sembra una squinternata globale, però poi dopo sembro io che sono matto, a me una così mi sembra una squinternata, che vi devo dire, oh, Va bene, grazie. Lea, cerca di resistere anche per te. Ciao, ti abbraccio. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.